Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Il padre e la madre di Wertheimer erano entrambi piccoli di statura. Lui, Wertheimer, era più alto dei suoi genitori, pensai. Era quel che si dice un uomo prestante, pensai. Solo a Hietzing i Wertheimer possedevano 3 grandi ville. E quando una volta Wertheimer dovette decidere se voleva o no che gli fosse intestata una delle ville che suo padre possedeva a Grinzing, Wertheimer fece sapere a suo padre che non aveva per quella villa il minimo interesse, come in genere non aveva interesse per le altre ville del padre, il quale possedeva numerose fabbriche nella Lobau, a prescindere dalle imprese di sua proprietà in Austria e all'estero, pensai. I Wertheimer hanno sempre fatto quella che si dice una vita da gran signori, ma nessuno se n'è mai accorto perché loro facevano in modo che nessuno se ne accorgesse. La ricchezza dei Wertheimer nessuno poteva leggergliela addosso, almeno non al primo sguardo. I fratelli Wertheimer non avevano in fondo mai avuto il minimo interesse per l'eredità dei loro genitori e sia Wertheimer sia la sorella, quando fu aperto il testamento, non avevano la più pallida idea di quali e quante proprietà sarebbero loro spettate. Per l'inventario dei beni patrimoniali eseguito da un avvocato del centro di Vienna avevano dimostrato un interesse scarsissimo, benché fossero rimasti strabiliati dalla effettiva ricchezza di cui all'improvviso erano entrati in possesso e che comunque rappresentava per loro un grandissimo fastidio. Eccetto la casa del Kohlmarkt e il casino di caccia a Traich, avevano deciso di vendere tutto, dando poi incarico a un avvocato appartenente alla famiglia di investire il loro denaro nel mondo intero. Così disse un giorno Wertheimer, contravvenendo alla sua abitudine di non parlare mai delle proprie questioni patrimoniali. L'eredità dei genitori era toccata per 3/4 a Wertheimer e per 1/4 alla sorella di lui, che pure ha fatto investire il suo patrimonio in vari istituti di credito in Austria, in Germania e in Svizzera, pensai. I fratelli Wertheimer avevano l'esistenza assicurata, pensai, come del resto anch'io, benché la mia situazione patrimoniale non potesse certo essere paragonata a quella di Wertheimer e di sua sorella. I bisnonni di Wertheimer erano ancora dei poveri diavoli, pensai, gente che torceva il collo alle oche nei sobborghi di Leopoli. In ogni caso, anche Wertheimer veniva come me da una famiglia di commercianti, pensai. Una volta, per un suo compleanno, a suo padre era venuto in mente di regalargli un grande castello che in origine faceva parte dei possedimenti della famiglia Harrach. Ma Wertheimer, quel castello che ormai era suo, si rifiutò perfino di andarlo a vedere, tanto che il padre, ovviamente furente per la freddezza e irriguardosità di suo figlio, aveva subito rivenduto il castello, pensai. I fratelli Wertheimer conducevano in realtà un'esistenza modesta, senza pretese, che non dava nell'occhio, un'esistenza che rimaneva sempre pressoché in secondo piano, al contrario di tutte le altre persone del loro ambiente che conducevano una vita fastosa e si davano grandi aree di importanza. Anche nel Mozarteum la ricchezza di Wertheimer non ha mai dato nell'occhio, come del resto non ha mai dato nell'occhio la ricchezza di Glenn, e Glenn era un uomo ricco. A posteriori emerse con chiarezza che i ricchi in un certo senso si erano ritrovati, pensai, grazie a un fiuto speciale per il loro comune retroterra. il genio di Glenn non era stato altro, pensai, che un'ulteriore grandissima aggiunta. Le amicizie, pensai, l'esperienza lo dimostra, sono possibili alla lunga soltanto se si fondano su un comune retroterra. Tutto il resto, pensai, è pura illusione. Ad un tratto mi stupii per il sangue freddo con cui avevo deciso di scendere ad Attnang-Puchheim e di venire qui a Vancam per poi recarmi a Traich nel casino di caccia di Wertheimer, senza mai aver pensato neppure per un attimo di passare da casa mia a Dässelbrunn, una casa vuota ormai da 5 anni che viene arieggiata ogni 4 o 5 giorni, almeno così suppongo, dato che pago della gente incaricata di farlo. Mi stupii, dicevo, del grande sangue freddo con cui avevo deciso di passare la notte qui a Vancam, nella locanda più schifosa che abbia mai conosciuto, pur avendo una casa tutta mia a meno di 12 chilometri di distanza. Ma in quella casa, come subito pensai, non ci sarei mai andato, perché 5 anni addietro avevo giurato a me stesso che almeno per 10 anni non sarei più tornato a Dässelbrunn. E finora non mi era stato difficile tener fede a questo giuramento, il che significa che ero riuscito a controllarmi. La mia casa di Dässelbrunn me l'ero totalmente rovinata e poi resa del tutto intollerabile, pensai, perché un giorno a Dässelbrunn mi ero imposto io stesso un compito inderogabile. Tale compito consisteva prima di tutto nel rifiutare il mio Stanway. E fu questo, in un certo senso, l'elemento che scatenò la mia intolleranza all'idea di rimanere più a lungo a Dässelbrunn. Ad un tratto non potevo più respirare l'aria di Dässelbrunn e i muri di Dässelbrunn mi facevano ammalare, le stanze minacciavano di soffocarmi. Eppure si trattava di stanze grandissime, stanze di 9 metri per 6 o di 8 metri per 8, pensai. Io quelle stanze le odiavo. E odiavo ciò che esse contenevano, e quando uscivo di casa odiavo le persone davanti alla casa. Ad un tratto ero diventato ingiusto nei confronti di tutte quelle persone che volevano soltanto il mio bene, ma proprio questo col tempo mi aveva dato sui nervi. La perpetua disponibilità di quella gente mi aveva all'improvviso profondamente disgustato. Mi barricavo nel mio studio e guardavo con gli occhi sbarrati fuori dalla finestra, senza vedere nient'altro che la mia infelicità. Camminavo all'aria aperta e insolentivo tutti quelli che incontravo. Correvo nel bosco e, stremato, mi accovacciavo sotto un albero. Allora, per evitare di impazzire del tutto, voltai le spalle a Dässelbrunn almeno per 10 anni, almeno per 10 anni, almeno per 10 anni, mi dissi e ridissi 1000 volte quando lasciai la casa e mi recai a Vienna, da dove poi ripartii per andare in Portogallo, dove avevo dei parenti a Sintra. Il che significa che avevo dei parenti nella più bella regione del Portogallo, una regione nella quale gli eucalipti arrivano a 30 metri e si respira la migliore aria del mondo. A Sintra, inoltre, ritroverò la mia musica che a Dässelbrunn ho espulso radicalmente, per così dire una volta per tutte, da me stesso. Così pensavo, allora pensai. E mi ristorerò sulla costa atlantica con una cura di inalazioni matematicamente calibrata. A quell'epoca avevo perfino pensato di poter riprendere a suonare sullo Stanway del mio zio di Sintra, dal punto in cui avevo smesso di farlo a Dässelbrunn, ma era stata un'idea insensata, pensai. A Sintra facevo a piedi ogni giorno i 6 chilometri in discesa fino alla costa atlantica. E per ben 8 mesi non mi è mai venuto in mente di sedermi a un pianoforte. Io a Sintra non ho mai sfiorato un solo tasto del pianoforte, finché mio zio e tutti gli altri che vivevano in casa sua mi dicessero continuamente che dovevo suonare qualche cosa per loro. Eppure devo ammettere che proprio a Sintra, durante quel periodo meraviglioso che mi è stato concesso di inattività all'aria aperta e in quella che devo dire è una delle più belle regioni del mondo, mi è venuta l'idea di scrivere qualcosa su Glenn. Ho detto qualcosa Che cosa, non potevo saperlo? Qualcosa su di lui e sulla sua arte. Con questa idea in mente camminavo in lungo e in largo, a Sintra e dintorni, e alla fine passai un anno intero laggiù senza neanche cominciare a scrivere qualcosa su Glenn. Cominciare uno scritto è la cosa più difficile che esista. Io mi sono sempre aggirato per mesi e perfino per anni con l'idea di uno scritto che non riuscivo a incominciare. E così è accaduto anche per Glenn, il quale, come allora pensavo, doveva assolutamente essere descritto, ma solo da un testimone competente della sua vita e della sua attività pianistica, da un testimone competente della sua mente straordinaria in tutto e per tutto. Un giorno mi azzardai a cominciare questo scritto nell'albergo Inghilterra, dove avevo intenzione di trattenermi per 2 giorni soltanto, mentre poi ci rimasi per 6 settimane senza mai smettere di scrivere su Glenn. Eppure alla fine, quando mi trasferii a Madrid, avevo in tasca solamente degli abbozzi. E questi abbozzi li distrussi perché tutto a un tratto, invece di essermi utili, mi impedivano di scrivere. Ne avevo fatti troppi di abbozzi. Ed è questa una iattura che mi ha già rovinato molti lavori. È giusto e importante fare diversi abbozzi per ogni lavoro, ma quando di abbozzi ne facciamo troppi, roviniamo ogni cosa, pensai. E così anche allora all'Inghilterra stavo seduto ininterrottamente nella mia stanza e facevo abbozzi fino a quando mi sembrava di impazzire, e rendendomi conto che quegli abbozzi su Glenn erano la causa della mia pazzia, trovavo la forza di distruggere quegli abbozzi su Glenn. Semplicemente li ficcavo nel cestino della carta straccia e osservavo la cameriera che afferrava questo cestino e lo portava fuori dalla mia stanza per farne poi scomparire il contenuto nel bidone della spazzatura. Era per me un gradevole spettacolo, pensai, vedere la cameriera che si portava via e faceva scomparire i miei abbozzi su Glenn, abbozzi che non si contavano a centinaia, bensì a migliaia. Mi sento più leggero, pensavo allora. Per tutto un pomeriggio rimasi a sedere sulla mia sedia davanti alla finestra e all'ora del crepuscolo riuscii a lasciare l'Inghilterra e a raggiungere a Lisbona, scendendo lungo la Liberdade, il mio locale preferito sulla Rua Garret. Quando fui a Madrid e finalmente compresi come dovevo incominciare il mio scritto su Glenn, che poi ho in effetti portato a termine nella Calle del Prado, di questi tentativi sfociati tutte le volte nella distruzione dei miei abbozzi ne avevo già fatti 8, pensai. Ma ora ripresi a dubitare che quel mio scritto avesse un qualche valore e pensai che al mio ritorno lo avrei distrutto. Del resto, tutte le cose che scriviamo, se le lasciamo riposare per un periodo piuttosto lungo per poi riesaminarle da capo, sempre, come ovvio, ci risultano insopportabili e non riusciamo a darci pace fino a quando non le abbiamo distrutte, pensai. La settimana prossima sarò di nuovo a Madrid e come prima cosa dovrò distruggere lo scritto su Glenn per cominciare un nuovo scritto su di lui, pensai. Uno scritto che sia ancor più concentrato, ancor più autentico, pensai. Perché noi crediamo sempre di essere autentici e in realtà non lo siamo, e di essere concentrati in realtà non lo siamo. Naturalmente nel mio caso questa consapevolezza ha sempre avuto come esito la non pubblicazione dei miei scritti. Non è apparso, pensai, un solo mio scritto in 28 anni, 28 anni passati a scrivere. Solamente lo scritto su Glenn mi impegna da ormai 9 anni, pensai. È stato Un gran bene che tutti questi scritti incompiuti e imperfetti non siano mai apparsi, pensai. Se li avessi pubblicati, ciò che avrei potuto fare senza difficoltà, sarei oggi l'individuo più infelice che si possa immaginare. Un individuo che sarebbe ogni giorno messo a confronto con i suoi scritti disastrosi, pieni zeppi di errori, di imprecisioni, di sciatterie, di dilettantismo. A questo castigo mi sono sottratto con la distruzione, pensai, e ad un tratto la parola distruzione mi diede un grande piacere. La ripetei più volte tra me e me. Arrivato a Madrid, subito distruggere lo scritto su Glenn, pensai. Quello scritto deve scomparire al più presto affinché io possa scriverne un altro. Adesso lo so come si affronta un simile scritto. Prima non l'ho mai saputo, ho sempre cominciato troppo presto, pensai, in maniera dilettantesca. Per tutta la vita ci sforziamo di evitare il dilettantismo, ma esso di continuo ci rincorre e ci raggiunge, pensai, e non c'è nulla che noi desideriamo con maggiore intensità che sottrarci per sempre al dilettantismo dal quale veniamo continuamente raggiunti. Glenn è la spietatezza, Glenn è la solitudine, Glenn è Bach, Glenn è le variazioni Goldberg, pensai. Glenn è il suo studio in mezzo al bosco, il suo odio per la gente, il suo odio per la musica, il suo odio per la gente che ama la musica, pensai. Glenn è la semplicità, pensai, osservando la sala della locanda. Dobbiamo sapere fin dall'inizio quel che vogliamo, pensai. Già da bambini dobbiamo aver chiaro in testa ciò che vorremmo essere da grandi, ciò che vorremmo, che dovremo ottenere. Il periodo che ho passato a Dässelbrunn e Wertheimer, a Traich, pensai, è stato un periodo micidiale. Il cercarci a vicenda demolirci, pensai, ci ha massacrati. Io, in effetti, andavo da Wertheimer a Traich solamente per massacrarlo, per disturbarlo e massacrarlo, come lui del resto, che non aveva altri motivi per venire da me. Andare a Traich significava solamente distogliermi un poco dalla mia atroce miseria spirituale e disturbare Wertheimer, scambiare con lui dei ricordi di gioventù di fronte a una tazza di tè, pensai, e avere sempre Glenn Gould come centro dei nostri discorsi. Non Glenn, ma Glenn Gould, dal quale entrambi siamo stati annientati, pensai. Wertheimer veniva a Dässelbrunn per disturbarmi, per soffocare sul nascere, fin da quando arrivava, un mio lavoro appena incominciato. Non faceva che dire in continuazione: se solo non avessimo incontrato Glenn, oppure se Glenn fosse morto giovane prima di diventare una celebrità mondiale, pensai. Incontriamo un uomo come Glenn e questo incontro ci annienta, ritengo, oppure ci salva. Nel nostro caso Glenn ci ha annientati, pensai. Su un Bösendorfer non avrei mai suonato così Glenn, pensai. Non sarei riuscito a combinare nulla su un Bösendorfer. Quelli che suonano sul Bösendorfer contro quelli che suonano sullo Steinway, pensai. I patiti dello Steinway contro quelli del Bösendorfer. All'inizio gli avevano messo in stanza un Bösendorfer, ma Glenn lo fece subito portare via e sostituire con uno Steinway, pensai. Io non avrei mai osato accampare a Salisburgo una simile pretesa, pensai, proprio allora che stava incominciando il nostro corso con Horowitz. Glenn già a quell'epoca era sicurissimo del fatto suo. Di un Bösendorfer non voleva sentir parlare, gli avrebbe mandato all'aria i suoi piani. E quelli avevano accettato di scambiare il Bösendorfer con lo Steinway senza battere ciglio, pensai, benché Glenn a quell'epoca non fosse ancora Glenn Gould. Ho ancora davanti agli occhi gli operai che portano fuori il Bösendorfer e dentro lo Steinway, pensai. Ma Salisburgo non è adatta allo sviluppo di uno che vuol suonare il pianoforte, diceva spesso Glenn. Il clima è troppo umido, rovina lo strumento e rovina colui che lo suona. In brevissimo tempo gli rovina le mani e il cervello. Ma io volevo studiare con Horowitz, diceva Glenn. Questo fu per me decisivo. Nella stanza di Wertheimer Le tende erano sempre tirate e le serrande abbassate. Glenn suonava con le tende aperte e le serrande alzate, io addirittura con le finestre spalancate. Non avevamo vicini di casa e dunque nessuno che se la prendesse con noi. Questa fu una vera fortuna, perché in caso contrario il nostro lavoro sarebbe stato irrimediabilmente compromesso.